Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. È l'ultimo appuntamento con il mondo della scuola per questa stagione, come sempre in corrispondenza della festa di Sant'Antonio. Questa è la rubrica che va in vacanza prima, ma come in vacanza molti studenti già sono da alcuni giorni. Occasione ulteriore per fare l'in bocca al lupo e il buon lavoro a tutti quelli insegnanti, studenti, personale amministrativo che sono impegnati per i giorni di esame e di scrutinio. Mirko Cavallini studio, è di Daici Regia, come da tradizione per aprire, per chiudere questo ciclo di trasmissioni, Don Edmondo Lanciarotta, ben trovato a tutti voi e grazie della vostra disponibilità. Partiamo facendo un percorso a ritroso, se vogliamo. Avevamo iniziato proprio con quella data e su quella data torniamo adesso, ormai più di un mese dal suo svolgimento. 10 maggio, la chiesa per la scuola con il Papa. A un mese di distanza, cosa rimane di questo grande appuntamento? Rimane la eccezionalità, la unicità e la originalità di questo incontro straordinario, al di sopra di ogni previsione. Pensavano un 100.000 persone, sono presentate più di 300.000. Dal punto di vista organizzativo è andato in tilt, possiamo come dire. Come sempre, sì. Però dal punto di vista così della coreografia, della presenza, della festa, è stato veramente un evento straordinario. Tutti coloro che hanno partecipato, pur con grande stanchezza e grande fatica, sono stati appagati dalla festa, sono stati pagati dall'incontro col Papa, sono stati pagati dal sentire viva la presenza di un mondo, il mondo della scuola, che entra in maniera positiva nell'opinione pubblica, nella stampa, nella televisione. E questo è stato positivo, siamo stati capaci in tutti, ragazzi, genitori, bambini, docenti, dirigenti, siamo stati capaci di porre la questione scuola, mondo della scuola, e con la scuola vogliamo dire tutti gli ordini e gradi, quindi dall'infanzia alle superiori, ai centri di formazione professionale, all'università, scuola paritaria, scuola statale, porre la questione scuola nell'agenda dell'opinione pubblica, porre la questione scuola nell'agenda politica, porre la questione scuola, la realtà scuola dentro la comunità cristiana. Quindi questo è un dato incontrovertibile. E sotto questo aspetto qui, al di là anche di quelle che sono state le manifestazioni, gli interventi, per taluni anche un po' troppo lunghi, perché volevano sotto il sole quanto prima anche l'intervento del Papa. Il Papa ha parlato per 20 minuti solamente. La parola del Papa, il suo approccio, la sua modalità, di cogliere questo mondo e di ripresentarlo, di rilanciarlo, è stato estremamente positivo, punto su cui partire necessariamente. Uso un gioco di parole per la prossima domanda. La scuola al centro dell'agenda, i lavori da fare sulla scuola, sono strutture e i valori che la scuola può e deve trasmettere. Innanzitutto il punto da cui è partito il Papa e dovrebbe essere anche il punto da cui noi partiremo è l'espressione, poteva dire il Papa, la scuola è importante. Il Papa avrebbe potuto dire la scuola è bella, avrebbe potuto esprimere fare altre espressioni. Invece lui è partito dicendo io amo la scuola. Quindi ha modificato l'approccio e ha invitato tutti a riverificare la propria relazione con questo mondo. Io amo la scuola e ha portato la sua esperienza di studente e poi di docente e poi così anche come vescovo. E la sua prima esperienza è attraverso la sua maestra. Io amo la scuola. Questo è stato fondamentale, dovrebbe diventare fondamentale per tutti coloro che vogliono mettere appunto in agenda la questione. Poi tutte le altre questioni, i lavori, sono anche secondari, importanti perché bisogna investire sinceramente. Però possiamo dire anche una scuola la più bella dal punto di vista architettonico e la più adeguata dal punto di vista anche igienico, non è vera scuola se non la si ama, perché si sta presto a deturparla e a rovinarla con relazioni che non sono prettamente umane. Quindi questo è un punto primo. E poi la conclusione del suo breve discorso è che ha invitato tutti ha invitato tutti a crescere nelle tre lingue, ecco, la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani, in maniera armoniosa. E quindi, sotto questo aspetto qui, ha invitato tutti a cogliere l'armoniosità, a cogliere l'armonia, a cogliere la integralità, a cogliere un'educazione integrale, completa, sintetizzata appunto mente, cuore e mani, e fare quello che effettivamente si è pensato e realizzare quello che si è ritenuto positivo. Quindi queste tre lingue armoniose e insieme sono un invito appunto da cui partire per qualunque azione, sia pastorale, sia sociale, sia politica, del mondo della scuola, a servizio dei giovani, a servizio delle giovani generazioni. E proprio dal punto di partenza, perché questo incontro è un punto di partenza, non solo un punto di arrivo di un percorso di preparazione molto lunga, da qui appunto ci ritroviamo tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Parlare con te e dietro ad un telefono ascoltarti ridere, capire che è dolce è solo per un attimo, e ignorare i brividi che non senti più. Amore, raccontami. Grande da farmi perdere, sono qua a rincorrere parole, ad inventare ancora scuse, accorgermi che non sei più parte di me. Nelle stanze del mio cuore, chi ha sentita piangere un amore inutile, ti ho vista delusa, sempre più lontana, una stella pallida che non brilla più. Amore, raccontami. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Nell'ultima puntata di questo ciclo dal mondo della scuola stiamo ripartendo dalla giornata del 10 maggio, l'incontro del Papa con tutta la scuola italiana. Dicevamo, Don Edmondo, un incontro che non è stato improvvisato perché ha avuto un lunghissimo percorso di preparazione. Una lunghissima gestazione, appunto, è stato lanciato il maggio dell'anno precedente. Quindi. Ecco, e quindi poi realizzato dopo un anno, sì. E dicevamo poco fa, è un punto di partenza perché già lo accennavamo nel corso di questa stagione, si guarda già alla primavera del 2015 a Firenze. Sì, il convegno ecclesiale, ecco, del 2015 è un convegno che nasce all'interno del decennio che i vescovi italiani hanno indicato, prevalentemente concentrato sull'educazione, educare la vita buona del Vangelo. E orientato a questo convegno che ha come centralità, come tema base, l'antropologia, l'umanesimo, Cristo che presenta il vero volto dell'uomo. Quindi l'impegno della pastorale della scuola, dell'educazione, dell'università non può non concorrere anch'esso a fare in modo che ogni azione pastorale concorra a che si realizzi in ogni uomo il vero uomo che è Gesù. Quindi la tematica è questa. Certo, di fronte alle nuove e sempre più drammatiche sfide e emergenze che depotenziano l'uomo, che lo privano degli elementi essenziali, che lo sacrificano e che lo anche offendono in quella che è la sua identità e la sua anche realtà sacrale. Ecco, l'impegno per l'uomo e prepararci a questo impegno del convegno del 2015, ecco, è una continuazione dell'appuntamento che abbiamo fatto con Papa Francesco. Però è da notare anche che questo decennio è un decennio che anche la comunità europea ha posto. Cioè, noi dal punto di vista ecclesiale diciamo è un decennio 2010-2020 sulla scuola e sull'educazione, ma non dobbiamo dimenticare che anche la comunità europea, l'Unione Europea, ha fissato nel 2010-2020 un decennio appunto sull'educazione, e questo è stato fissato ancora nel 2000. Nel 2000 venne approvata l'Unione Europea la cosiddetta strategia di Lisbona, che poi messa in atto nel 2010 dovrebbe concludersi nel 2020. E quali sono le principali, ecco, le priorità? Ecco, una crescita, viene detta, intelligente, una crescita sostenibile e una crescita inclusiva, in cui la scuola e tutto il sistema della scuola e tutti i sistemi scolastici di formazione a livello europeo sono invitati a concretizzare, ecco, queste indicazioni di Lisbona 2010. Facciamo un esempio, ecco, per quanto attiene il tasso di abbandono, l'obiettivo fissato per 2020 è quello di non superare il 10% dell'abbandono, e la partecipazione a iniziative di apprendimento e in maniera permanente dovrebbe essere al 15%. Non so se l'Italia ci rientra, però noi possiamo dire, ecco, non per essere troppo di parte, ma il nostro Veneto non ha questo tasso, ha un tasso inferiore, ha un tasso molto inferiore a questo, quindi possiamo dire che noi come Veneto siamo già dentro queste categorie dell'Unione Europea. Purtroppo l'Italia è lunga e non abbiamo una situazione uguale, e questo penalizza l'Italia a non entrare nei parametri europei. Ecco, a proposito poi di Europa, l'Italia è molto diversa, anche l'Europa è molto diversa, sì. Quindi anche i sistemi scolastici, i ragazzi, soprattutto le superiori, girano, fanno esperienze di scambio, vedono, si confrontano, non sempre la nostra scuola italiana ne esce, anzi, sotto questo aspetto qui è molto, molto penalizzata. I nostri studenti girano poco, non sono equipaggiati dal punto di vista linguistico, non hanno una competenza pari a quella degli altri coetanei stranieri dell'Europa, possiamo dire, e quindi sono penalizzati. E quindi sotto questo aspetto qui, con l'impegno anche del mondo della scuola a livello italiano, è quello di raggiungere alcuni parametri minimi. Però sotto questo aspetto qui siamo ancora dietro e siamo nel 2014. Vabbè, mancano ancora 6 anni. Speriamo che anche con la spinta dell'incontro che abbiamo avuto con il Papa e con le affermazioni anche del ministro Giannini, ecco, e con le indicazioni del presidente del Consiglio Renzi, che ha messo la scuola al centro, speriamo che, ecco, questo possa, dalle parole si passano anche i fatti. Questo lo vedremo fra un po' di anni, probabilmente, nei suoi effetti. Facciamo già l'ultima pausa e poi guardiamo al futuro anche più immediato. Dal mondo della scuola. Sharp day, when the heat of a rolling wind can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you, and can't. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough to make kings and vagabonds. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love? Led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe. L'ultima parte di questa ultima puntata stagionale dal mondo della scuola con Don Edmondo Lanciarotta. Abbiamo guardato un po' indietro al 10 maggio, a quello che c'era stato prima, a quello che verrà e nel contesto in cui siamo a livello italiano e europeo del decennio dedicato in generale all'educazione. Guardiamo al prossimo tempo. Già ovviamente si lavora per il nuovo anno scolastico. Dal prossimo mese di settembre le basi si pongono già subito in queste settimane, anche nel contesto dell'anno pastorale. Sì, perché a livello del Triveneto, ecco, noi siamo invitati a proseguire il cammino avviato, no? E a dare, per quanto è possibile, concretezza alle indicazioni emerse dall'incontro con il Papa, la Chiesa per la scuola. E il vocabolario di cui ci siamo anche così soffermati anche da questi microfoni, con quelle parole educazione, insegnanti, generazione futuro, umanesimo, Europa, autonomia, comunità, alleanza educativa, ecco, noi vorremmo alcune di queste declinarle in maniera tale che realmente ci sia una capacità di affrontare alcuni nodi fondamentali della questione scuola, che siano condivisi da tutto o possibilmente dalla stragrande maggioranza anche del mondo ecclesiale, del mondo dei cristiani, ecco, per contribuire, al di là degli steccati e delle contrapposizioni politiche, a realizzare una scuola adeguata ai nostri giorni. E allora, a livello così, del Nord Italia, ecco, le commissioni e le consulte del Nord Italia proseguono, ecco, questo percorso. Avremo un incontro qui ai primi di luglio per rivedere un documento che è stato anche così proposto da noi responsabili, ecco, delle regioni ecclesiastiche del Nord. Il titolo era Perché nessuno si perda, e cerchiamo appunto con i responsabili di alcuni settori, quello della formazione professionale, quello dell'infanzia, i dirigenti scolastici, ecco, di elaborare un documento su alcuni punti fondamentali e sui quali appunto trovare una convergenza, in maniera tale da offrire, ecco, all'opinione pubblica e anche alle comunità cristiane, ecco, delle linee operative. Quindi, dopo il grande evento su cui, ecco, abbiamo posto l'attenzione, ecco, noi dovremo adesso tirare anche alcune conseguenze, o meglio, offrire a coloro che sono i tecnici della politica scolastica, offrire alcuni criteri, ecco, interpretativi condivisi. Questo è il lavoro che faremo in questi mesi, in maniera tale che poi a livello locale, ecco, noi potremo continuare la solita, diciamo, fatica di sensibilizzazione fatta attraverso i convegni, fatta attraverso degli incontri, in maniera tale che poi i protagonisti di questo mondo, dagli studenti ai genitori e ai docenti, ecco, si possa creare quella famosa alleanza che tante volte abbiamo parlato, che anche il Papa ha ribadito e che la scuola ha sancito attraverso il patto di corresponsabilità educativa. La scelta di farlo a livello di Nord Italia è per questioni di uniformità, diciamo, socio-economico-culturale? No, perché? È perché così, non perché vogliamo essere più bravi degli altri, è perché noi da diversi anni abbiamo già elaborato una strategia, ci introviamo, siamo dal punto di vista così anche organizzativamente preparati, e quindi vogliamo dare, ecco, un input, e poi sempre d'accordo con i vescovi, ecco, responsabili, e con il direttore dell'ufficio nazionale dell'UNESU, e d'accordo appunto con il segretario della conferenza episcopale, ecco, a offrire questo contributo di riflessione, ecco, e di concretezza, possiamo dire, per una strategia politica che dovrebbe essere poi assunta da coloro che sono invece i responsabili. A livello politico segnalo, così per dovere di cronaca, che nella prossima primavera si andrà al voto per la regione Veneto, e anche questo per la nostra regione è un passaggio importante. Ci sarà comunque il cambio del passaggio delle scuole materne dai servizi sociali, sì, all'istruzione, col cambio dell'assessore nuovo. Esattamente, e questa è una conquista che noi abbiamo anche acquisito, perché sono anni che dicevamo che appunto la scuola dell'infanzia 3-6 anni non è più nell'assistenza sociale, ecco, fa parte dell'istruzione, e quindi unificare tutta questa complessa realtà della scuola in un unico assessorato diventa anche più facile poi anche per interloquire, e poi anche dare maggiore qualità, ecco, a quello che è la presenza capillare delle scuole dell'infanzia nel nostro Veneto. Ecco, scuole che sappiamo negli ultimi anni, ne abbiamo purtroppo già parlato tante volte, sono quelle più in sofferenza tra le tante, perché sono anche quelle più numerose presenti. Ci sono stati casi di comuni, cito Villorba, in cui la discussione è stata molto anche molto accesa a livello di dibattito popolare, perché ricordo, per inciso, il comune ha deciso di ridurre i contributi che di solito dava appunto alle scuole per l'infanzia presenti nel territorio, quindi nelle difficoltà generali di tutti questo è ancora un tema. Dobbiamo far presto, prestissimo, perché altrimenti il nostro sistema, tante volte lo abbiamo detto a questi microfoni, il nostro sistema basato sull'autonomia, basato sulla sussidiarietà, ecco, si sgretola. E quindi poi le grandi conseguenze negative sono sotto gli occhi di tutti. Quindi dobbiamo assolutamente fare presto con una scelta politica che non è solamente il dare i soldi, ecco, il punto di vista economico, è il riconoscere un servizio, riconoscere il bene, quante volte ci siamo detti. Speriamo che questo possa avvenire. E speriamo di non parlarne più in questi termini, a cominciare dal prossimo anno scolastico. Con questo appuntamento noi chiudiamo questo ennesimo ciclo ultraventennale. Sì, ultraventennale, sì. Grazie a voi Mirko, grazie a voi Eddie, della vostra disponibilità, ecco, grazie e buona estate. Grazie a Don Edmondo, a tutti i collaboratori dell'ufficio e buona estate. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.